qualcuno cappa. Stavo dicendo, io qua c'è uno spazio, mi sa che tolgo queste che soffre fuori, no? Ci va bene il mio 30 ampere su quel 440, va bene questo qua, sì? Sì, va bene. 30 ampere sono più che sufficienti. Va benissimo, non c'è problema. E capo, va. Dove prendo l'alimentatore, se ce l'ho già. Io sono un buon pane, lo vado ad andarne. Cioè, fa andare chi sa che c'ha apparecchio, vado ad andare. Non vado ad andare ghiso. Sì, che va bene, va benissimo. 30 ampere già vanno bene, non ti preoccupare. Quando sarà, te lo prenderai anche tu. Capa, prendo quello, mi piace a me, quello con l'accordatore, perché almeno non sono sicuro di non avere problemi. Accordi, metti l'antenna diretta, accordi e sei a posto. E allora devi sacrificare 440, perché 140, 430, 80 non ne hanno l'accordatore. Ah, non ne hanno? Allora devo mettere quello lì. Se no mi devo comprare un accordatore da parte. Sai perché? Perché non mi piace farli uscire troppo, voglio farli uscire perfetti con gli apparecchi. Non ci siamo mai usciti a che cosa? Non è un accordatore. Vabbè, io non è un accordatore qua. L'antenna c'è 0 vibrazionari, ma il 0 non esiste. 1,01. Quindi non c'è problema, bisogna fare l'accordatore. Se non è stazionario, una volta che l'antenna va bene, non c'è bisogno di accordatore. Se invece è stazionario, allora ci vuole l'accordatore. Se dimmi le 440, se ne avrò bisogno di accendere tutti i santi giorni. Tutti i santi giorni, altrimenti è un casino. Io non ho più quel problema adesso, ce ne ho due, 140 sto cercando la T250, che è l'accordatore di linea elettronico, se la trovo, stiamo cercando con Luca, ma non riesco a trovarlo, se lo trovo me lo prendo, così c'ho la linea completa, io ho capito, c'ho l'alimentatore, colonnina, radio, accordatore automatico, tutto. Non si trovano. Ascolta, ma come mi ha detto che vanno bene, ma quelli della Detaggi buoni sono come strumento accordatore? Va, non è bigliare la Detaggi, è compresa la Basilia, con la Detaggi. La matta che ne varia, la senso prendi bagaggia. Vai, accordatore base la Detaggi, niente strumenti sa fare la Detaggi fra poco. Lascia perdere, lascia. No, non è usato gli accordatori così, accordatori buoni ci vogliono, la Daiwa, la Vectronic, accordatori buoni, capito? La Daiwa fa buone cose, buoni strumenti, buoni accordatori. No, quando c'è una radio così devi avere strumento e strumenti buoni, fermi, altrimenti ti casini. Se c'è accordatore di mappa e coda, ce lo fate in bagà, 70 euro ce lo fate in bagà, ma poco no. Cosa vuoi uscire 70 euro? Cosa vuoi uscire 70 euro tu? L'accordatore che c'ho io costa 250 euro, cosa vuoi uscire 70 euro? E capa, vabbè, ma no, non è neanche poco, visto il coso, il K1000, come ti maraggio si chiama, costa 200 euro, se lo faccio in bagagne. Dice che è buono quello, mi hanno detto, ma bisogna vedere. Che cos'è l'H1000? L'H1000, è una cosa del genere, quello che faceva, il più professionale che faceva la ZG. Dite, non ho mai fatto roba professionale la ZG. Strumenti di misura e buono, roba professionale ZG, non ne ha mai fatto, l'unica cosa che sa fare la ZG e che ha fatto bene sono gli alimentatori, capito? Quello è il trasformatore, il resto ha fatto solo cagate, dai commutatori d'antenna agli strumenti di misura, solo cagate gioco. Sai che comunque io ce l'ho avuto, uno della ZG, l'ho tenuto un bel po' di tempo fermo e non andava più di battenza. Sì, perché sono strumenti che ti servono per fare delle misurazioni, ma poi il professionale, cosa vale il professionale? Ma mai hai visto quanto è fatto il vento? Non lo so. E così è. E comunque già ce ne sono buoni, da. Che costano magari un po' di meno, però almeno sono buoni. Non sono dettagli. No, a me io sto parlando di un alimentatore che c'è con dettagli. Cazzo, è andata male. Ma giù che su GBC, quasi 10 anni e sempre funzionante. Ma GBC è un uomo della garanzia, GBC fa cose interessanti, anche perché fa componentistica, quindi quando costruiscono una cosa i componenti sono buoni, ma la dettagli lascia perdere. Lì. Sì, ecco, la ZG ha fatto buoni alimentatori, io ne ho lavorato una lucca di alimentatore della ZG a 25 ampere, al trasformatore, ma una vita minimo 25 anni ce l'avevo. Adesso c'era ancora lui e si è rotto una resistenza variabile e lo deve sostituire, ma l'alimentatore funziona sempre. Quelli sì, quelli già erano buoni, ma per il resto... Ma sai buoni chi erano pure? Alfa Electronic. Cazzo, ne abbiamo uno che ha più di 30 anni, ciao. Sì, Alfa Electronic, stesso, sono tutte case costruttrici di vecchia data, capito? Che magari usavano componentistica di tempi che furono, perché effettivamente la componentistica che c'era prima non è come adesso. Adesso la componentistica è una cagata, vai a pigliare un condensatore, dubbiate, lavori un mese di si coppia. Prima il condensatore durava una vita, la resistenza, Dio di transistor. È tutto cambiato ancora. La componentistica vale meno di zero adesso. Lo so. Ma un po' buoni sono questi switching, quelli buoni diciamo, quelli che possono andare bene, ma altri fatene gaga, fatene, oh, sì, lascia perdere. Però quella trasforma, cavolo, ne ha uno in magazzino, babbo, Elbex, minimo c'ha più di 30 anni, da 10 ampere, beh, due massiccio, funziona, tira bene, funziona bene. Ma allora li facevano buoni, quelli da 50 avvisavano un be. Perché io devi comprare bene, non devi comprare il cinese. Io ho il boxer switching da 60 ampere e poi ho il Diamond, della Diamond da 60 ampere, sempre switching, però uno costa 150 euro, l'altro costa 220 euro, la metà porta. Costa 30 euro. Sì, il Broxer è cinese, uè. Lascia perdere. Io ho comprato il cinese, io ho comprato un media uomo, ho comprato il cinese. È grande, è un attaccatore grosso, da 60 ampere, c'ha due strumenti, è grosso. C'è la protezione per l'inversione della polarità, c'è la protezione se dovesse entrare più di 220 volts, senza contare quello della Daimon. C'è già la ventola con la regolazione ad alta velocità e bassa velocità, capito? C'è una metà pure che costano, però io ho pagato 150 euro per la Prox. Quello della Daimon è un'altra cosa, quello che ci butta 220 euro. Va un po' meglio, è un po' più professionale rispetto a quello della Prox, però sono alimentatori che sono stati costruiti da case costruttrici buone, con componenti buoni, no, cagabili. No, io guarda, ce l'avevo un Proxel anni fa, però è andata male, non ha durato tanto, è andata male proprio. Ha durato 3-4 anni, poi è andata male, non ha funzionato più. Sì, ma quanti ampere era? Dove l'hai comprato? Bisogna vedere anche quello. Io ce l'ho più di 7-8 anni, ce l'ho mai toccato. Gli attacchi ce li ha dietro, ne ha 4 dietro e basta. Dietro, poi davanti ne altre 4, però sono per cavettini piccoli, capito? Attacco CNC e c'è tutto. Mi avevo comprato, ripeto, questo ho comprato mappa. No, praticamente l'avevo preso, mi sono sbagliato io, bugia mia, 5-6 anni ce l'avevamo, poi non l'ho utilizzato più, è andato male, come tutte le cose. L'avevo comprato a Milano, da Tecnocomunicazione. Quindi vedi bene, anche lì vedo una roba seria. Una cosa se non si usa tutto non male, perché non si usa. Avere il tratto militare è sempre una scheda capito, componenti elettronici che hanno bisogno magari di essere protetti. Quindi è andato male per quello, ma non è che ti si è bruciato, ti si è. Bisognava vedere cosa ci aveva. Io ti ripeto, questo ce l'ho più di 8 anni, non hai toccato, ma niente, mi da poco, quando ho smontato tutto che ho messo in ordine, ho praticamente l'ho aperto, c'erano ancora i sigilli, ero tutto pulito col pennellino, l'ho soffiato perché c'era un po' di polvere dentro, però funzionava egregiamente, capito? Sì, secondo me è andata male, c'è andata la polvere, eccetera, eccetera. La bulletta dovemmo e si è bruciato per quello. Secondo me. Sto usando questo, mi sembra soddisfacente, è tranquillo, mi sembra. Niente, non per alimentare un baracchino così va bene, io sto parlando per alimentare il radio di una certa razza, tu considera che io ci sono stati dei periodi che sul box c'avevo 3-4 HF collegate, sull'altro c'avevo altre 3-4 radio collegate grosse, radio ti sto parlando da 15-20 ampere l'una, quindi sto parlando di questo. Quando un alimentatore lo sfrutti proprio all'osso e lui risponde, vuol dire che l'alimentatore è buono. Non te ne accorgi quando tu un alimentatore così da 30 ampere come c'hai tu, lo dai 4-5 watt di assorbimento, 10 watt di assorbimento, se lo dici io. Non è niente, non è assolutamente niente. Va sfruttato per vedere se le caratteristiche sono quelle, capito? Sì, ma lo proverò a sotto sforzo, a vedere com'è. Adesso starà assorbendo, cosa ne so, una decina di ampere, forse anche di più. Una? Sì, forse anche più di 10 ampere. Si è attaccato però? Sì. Tra radio e le lineare 10 ampere, così è? Io penso così, anche di più forse. Io guarda, sono con la 140 a 10, 20, 30 watt. 30 watt siamo già a 10, 12. 12, 13, 14, 15, 16 ampere di assorbimento, una radio. E cap, tu lo sai meglio di me, cioè chi su già lo conosce, quello dorato quanto assorbe? Tu c'hai quello piccolo però, io c'ho quello grande, quello piccolo dovrebbe, assorbimento 7-8 ampere, non di più, fai altre 2 ampere e mezzo, 2 ampere, la radio, e siamo intorno ai 7-8 ampere. Secondo me anche di più, una decina, vai. Andiamo a vedere quanto assorbimento c'ha così. Il mio è il B300 di assorbimento, c'ha alla massima potenza, c'ha intorno ai 15 ampere di assorbimento. 10-12 ampere di assorbimento, scusa. Mamma mia, cavolo. Quello lì, cazzo, ce l'ho nel cuore, ce l'ho. Vabbè, era l'usoio, cosa devo fare? B300, sì, ce l'ho io. Ce l'ho nuovo. Non l'ho mai dato perché può capitare che lo attacco a qualche baracchino così giusto per provare. Funziona bene. Funziona benissimo, alla grande. Da intorno in quinta marcia l'ho provato con lo strumento esterno, da intorno ai 200 watt, 220 watt, capito? Va bene, va bene. che qualcuno che su Rocico brattava. Vabbè, ma c'è qualche che rende per avere un bel baracchino che spinga con la potenza regolabile, capito? E che spinga con quello Colt, quel B300, durava 270, 260. Con chi se lo attaccava ultimamente? Con quello lì l'ho usata. La usava con la Storm e usava, con, usava il B300 con chi apparecchio. Lo senti Antonio, Vanni? Io spegnete il baracchino, dai. Ma saluto, chi è Vannino? Chi è? O Benito? Chi è? Benito? Sì, Benito, buonasera. Buonasera anche a lei, buonasera. Ciao, ti buonasera, io ce la spegno, già appena acceso. Se tu la va, allora addio. Vannino la sorso, vediamo se ti accoppia, quanto ti accoppia. Vai, prova. Buonasera Vannino, mi colpi? Ciao Vanni, ciao. Oh, pronti? Nara, aspetta, lasciami connettere, io sono appena alzato. Sì, anch'io, non ti preoccupare, siamo tutti la matta selvaggia di trasporto, anche se vuoi del reforme, c'è quella maglia della Bortona. Ascolta a me, tu hai l'autocolante esterno, spero te l'abbia tenuto, quello SP430, quello come c'ho io sul 450? Yes. Bravissimo. Allora c'è Roberto Quadratto, lo sto chiedendo io perché me l'ha chiesto lui. Roberto Quadratto ha invece al contrario e vorrebbe quella grigia. Praticamente Roberto Quadratto ha quella del 450. Ok, l'SP23 mi sembra si chiama. Voleva fare il cambio completo, no, io non me ne faccio niente quella perché non c'ho il 450. Poi si è ricordato di te. Capito? Lui c'ha la colonia del 450 e vorrebbe quella del 440 perché lui c'ha quella del 440. Faresti scambio? Se fai scambio ti metti in contatto con lui e lo fate. È nuova nuova, non c'è un graffio, nuova nuova nuova. Ti faccio sapere qua perché devi converticare. Vabbè, se no ti telefono, c'è problema. Abbiamo il telefono di queste cose, io ti ho avuto due qua perché me l'ha praticamente detto, poi io mi sono ricordato di te, capito? Ok. Meglia, scusate che è una bassa. Meglia, va bene. Quanto ti arriva sorso Antonio? Vanni? Io? No, Vannino è al telefono. Sì. Però già mi intende, vuol dire che arrivo. Si è aggancato, ha fatto da 20 lì. Ma se si sgancia non ti sente più, oppure ti sente basso basso. Ma mi sento lo stesso. E tu vuoi rifare il blog, io non ho di problemi. A me Vannino mi deve sentire, no, fatti conto. Tu devi fare le prove, vedi, con la gente qualche così lontano devi fare le prove, loro vivono in casa buia. Loro attaccato, staccato, vuoi un po', no? Sei capa, massa valle Vannino. Dove sta? Aspetta, lui è più basso di me. Dico, la sorsa è basso. Però già non ci sono problemi, mi pare che arrivi sì, mi pare in occhi. Adesso non l'ho guardato poco fa. Ma si basso la Vannino. Adesso è una buona posizione anche lui. Tieni conto che questo percorso potrebbe anche essere molto più vicino di me. Però è che ho dopo 30 lupo su quindi. È sempre la solita cosa. Si conferma. Ma, vabbè, adesso, quando arriva la primavera, cioè, per adesso rimane così. Poi più là prendo, metto le gaffe al centrotetto, la pongo al centrotetto, che è meglio. Almeno riesco a sentire anche tutti. Cioè, più forte ancora, magari nelle zone più basse riesco a ricevere bene. Sono di nuovo qua, Se vuoi ti chiamo, un minuto, vabbè c'è anche il telefono scarico, però ti posso chiamare. C'è problema, ce l'ho, guarda, lo prendo il telefono e rispondo, ce l'ho in cucina. E vai, prendilo, vai, aspetta un attimo, non ti va, che devo dire qualcosa a te, non puoi prendere. Cacca, va, allora, un attimino io, sta, pronto. Vai, giro, vanni un attimo. Vanni e K, Santiago sì qua, come arrivo io a Sorso? Vabbè che non è che ci comprendi assai a chi ci smitter va rilette, però e K, ma cosa scatenai? E K, no, già va bene, dai, l'importante che arriva a Sorso. Aspetta, proviamo così a quattro vatti se va bene. Com'è così? Arrivo lo stesso o non arrivo? Com'è? Vabbè, stretto, ero più basso, vero, senza... Sì, vabbè, già arrivo lo matessi, buon inchiwi. Vuol dire che c'è un po' più negativo con me, sei più negativo, se no già non c'è problemi. Va bene? Beh, ho abbassato il volume, quanto ti arriva Sorso con e senza lineare? Prova ad attaccare Antonio, quindi senza lineare non lo senti quasi a livello QRM, quando attacca lineare Santiago 3, prova Antonio a vedere. Che vabbè, la potenza è bassissima, allora è bassissima la potenza. Adesso proviamo con l'altro a vedere come va, col 550. Vabbè, sentiamoci per telefono, tragitto l'altra volta che verrà chissà cosa, ma te no, e tu mi hai detto già ne parliamo, quindi sentiamoci per telefono, la vediamo un po', può essere interessante da attaccare a un baracchino, anziché attaccare il B300, quello lì è quello a 220, no, alimentazione 220. Sì, già lo so. Parliamo, se vuoi, della frangia buona, ci mettiamo d'accordo, Vanni. Avevo letto quella cosa là dell'antenna, quindi ci siamo già visti, ne avevamo già parlato, poi ci mettiamo d'accordo, insomma, non qua, là, non mi piace qua fare il mercatino. Cioè, se vuoi ti telefono. Attenzione, Vannino, mi senti? Attenzione Bonnino, senti Antonio, Cappa, com'è con questa radio? Più forte di radio? Ma lo senti Antonio Vanni? Allora, come sta dicendo? Vanni, io telefono già mi do. Precese, devo te precese. Ciao Antonio, perché sei tutto sacro? Sacro, ce l'ha già tirato tutto. Buonasera a tutti, non so chi ci sia, Cesaresso, là. Ciao Gianni. Ciao Tino, e allora? Mi Antonio, mi battuto è. Cosa battuto? No, ho già, sono staccato, non ne ho. Attaccato adesso. Adesso no, ma prima sì. Non lo dico a me, altro che immaginare c'io, molto fino. Vabbè, è normale, dai, no, non preoccupare. Adesso è normale. Adesso sei tu, la voce tua bella pulita, perfetta. Ma Tino che sono al telefono, ciao già, riprendi Tino. E abbiamo capito che stai facendo affari. Sì, anche per noi cinti. KK, va bene, là. Quando hai concluso siamo qua. Tino, chi c'è in ruota? Io che non ho fatto ascolto, dico la verità. Che dovini. Mi pare che Tino debba abitare con Claudio. Al telefono. Io così, senza niente, come ti arrivo lì da casa tua? No, sono qua, sono sotto un audio. Mi ho passato due perché qua c'è casino. Prova tu. Due, tre, prova. E lo stesso segnale Tino, sì. 9-3. Vabbè, già va bene, dai. Io sei pure attaccato tu, però. No, ho attaccato tutto. È attaccato. No, sei attaccato di strada. Sei più vicino, molto più vicino. Ma vicino tu. Sei più vicino tu di me, cosa stai dicendo? Io sono qua, in zona Corso Vico, gioco. Santo Bulinare, dai. Tu sei, non è che sei tanto lontano da lui. No. così, chi vi è, tu sei la buttibutti. Sei lontano, sì. Io sono a metà tra Sassari e Sorso. Adesso non lo so chi è più vicino, è la verità, stabilire un po'. Molto in basso. Devi scendere. Tanto va di giusto, dai. Mattino è in un fosso, mia tu. Aspetta un secondo il telefono. Scappa, eppure no che arrivi una bomba, arrivi. Però è in disaccordo. Scappa, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Vuole entrare, sì, a vedere. Brucia, è la vetiglia. Lo senti quello lì che sta arrivando, Otto? Come qua, sono rientrato, già. Scappa, c'ho un segnale, ciò che mi arriva 7-8, non capisco chi sia. Bravo. Non lo senti tu? No, io no. Ecco chi è! Hai detto che ti aspetto, un attimino, che te lo dobbiamo tanto. Rispondi ai messaggi. Io ti. Gioca lì a latte dolce, dai. Vai, gioca, aiù. Claudio. Ehi, ti calcolo il tuo compagno, non l'ho visto, adesso ti rispondo. Dimmi, Ivani. Allora, qui sono arrivato questo segnale. 9, quasi 9,5, sì. Ciao, non posso usare l'altro per lei, perché il mio sorso è molto scelto. Aspetta, questo è quello che ho detto io. 9,5 quasi. Meno male che io lì non arrivo a sorso, ok? Va bene, abbasciati, mi ci faccio della recci. Aspetta che rispondo a Tino un attimino, riprendi con Antonio. Cosa vai, Antonio, a Bozzi? Volevo provare, Antonio, qua. Prova, tu, prova. Via! Oh, vera chi su, Ruben di Riccardo Rivera, dalla Tirozzi. Chi su che mi buonia la portante, chi su di Gradiado. Ah, te lo chiedo tanto. Ma c'è subito che va a rompere le scatole. Qua mi arriva a 7, mi arriva. Avamo poi più tre per gatti, no? Lì mi faccio uscire di gabbo, mi fa 10. Mannaggia che... Antonio. Giuro, motore non riuscivo a modulare, brutto pezzo di idiota. L'ho riconosciuto subito. Grazie, mi metteva la portante, lì mi arrivava proprio a fondo mi arrivava, lì a latte dolce. Cioè, io non potevo più modulare anch'io. Io ponimi la portante, avà. Un attimo, Antonio. Via. Capito perché ero incavolato, Ocla? Sì, ho capito, però... Io se c'è casino, ci sono portanti, no, me la fottino da spengo e mi guardo la televisione. Ma che bugiana tu che sta bella con la gente. Io non sto cercando nessuno me ne fa rompere i coglioni, perché altrimenti mi incazzo a fare stavolta. Allora iniziamo a fare la moelli, ognuno se ne stia sul posto, tranquillo e sereno, perché qua nessuno sta disturbando, nessuno sta cercando nessuno, capito? Il solito è quello, l'amicaccio, quello che non mi faceva parlare, capito? Cioè, sempre quello là è un cazzo, nuda mi vazi, di buoni antenna, va a passare a me, un carotto. Ma sai quanto mi ha fatto incavolare? Ui, un giorno lo stavo andando a cercare col manganello in mano, lo volevo ammattare a colpi. L'ha fatto arrivare a un punto che non capivo più niente. Riesci a vedere? Ma perché non lo cambio? Quando cambio il radio tocca sempre accordare, sarà. Posso? Gola, già va bene. Scappa, guarda per sì. Via, mi prendi qua. Ah, non vedo più nessuno in occhi. Gianni, non c'è più Gianni, dove sei? È entrato, sei andato. Gianni. Sono qua. Ma tu Gianni ti chiami? Aspettatevi. No, ma dico più su Clara, mi ridai, ti scordonami, ma non, non sono in netta forma, perdonatemi, questo lo avessi detto qua. Non stai bene, qua. No, no, per niente, tanto, sono tutto messo male. Sono tutto messo male, fortunatamente sono già tamponato, quindi sono tranquillo, se no devo io andare a ripiegare. Sono tutto dolori, sono tutto crepato, naso, gola, sono tutto a pezzi, capito? Sintomo influenzale proprio mi ha crepato, ma colpa mia perché sono uscito in moto, in quei giorni che ha fatto caldo, sudato, pure sempre appiccato in un'altra gabbiuria. Colpa mia, colpa mia. Vabbè, importante che non vi sia il coronavirus, vabbè tu non sei andato da nessun luogo, solo che ero da macchina non andi. Appoggiati un poco, di fare un poco di pesa, non si andando a nessun luogo. No, noi siamo a posto perché c'è mia figlia che lavora al bar, quindi già fatto, abbiamo fatto tutte e tre, lui l'ha fatto aziendale, mia moglie l'abbiamo fatto a pagamento, quindi non abbiamo nessun problema. Lui ha detto bene, mia moglie non esce, io esco solo a fare la spesa, perciò però per precauzione, sai, avendo mia figlia che lavora a contatto col pubblico, l'abbiamo fatto. Infatti ti ho detto, fortunatamente mi hanno già tamponato, ho già fatto il tamponato, altrimenti sarei già andato all'ospedale per i sintomi che ho, capito? Vabbè, ti avrei pigliato un po' caretto di cosa, il mio principale, quasi un mese di pilare si è fatto, si è pigliato una 10 blocco polmoniti micidiale, grazie, ancora non sta già tanto bene. Tanto non solo lui, non solo lui, purtroppo c'è anche gente che purtroppo se n'è andata per via di questa cagata qua. Ma no, perché tanto io stavo guardando i necrologi però cazzo, prima di passare dal figlio, perché ci voglio passare, capito, l'assicurazione. Necrologio ne ho visto di Gianni, ma si chiama Farina di cognome. Mi pare di sì, mi pare di sì che si chiama Farina. A me mi danno detto, adesso lo può chiedere a Daniele, lo può chiedere, ma mi pare si chiama Farina, Edo. Io con Gianni ci siamo visti non da molto, proprio in via Napoli. Sono andato a Sandrino, lì al bar, abbiamo un occhio aperto, un ragazzo che anche mia figlia lavorava al Cris Bar, si è aperto il bar suo. Lui proprio lì di fronte a Fiocca e Conca, capito? C'è la mia età, cazzo, quindi non ho capito cosa sono già biglietto, ma devo formare bene prima di fare figure brutte, capito? Perché te l'hanno detto va bene, però io non ho aggiunto necrologi, ho controllato tutta i necrologi su internet della settimana scorsa, di questa settimana, non è nuda, quindi mi sembra strano, capito? Vabbè. Vannino, andato ce n'è Vannino. Ma la ultima roba del Zaffira, cerca. Con i soldi si trova tutto. E io lo vedi. No, io mi avevo fregato il fregio dell'Alfa, posteriore. Costava una trozzata su internet, però il carrozziere mi ha detto che non fidarmi perché poteva non essere, non poteva non andare bene, capito? Allora, va a dire più, l'ho comprato qua a Sassari all'auto A, mi ho fatto girare da loro e l'ho preso qua, tanto se vuoi il curva a dire più, avanti ti. Stavo guardando un video che mi sa poco di Ferrari, ma mi domanda. Stiamo facendo una cittadina modesta, case piccole, mia villa, per carità, a chi troppo a chi nulla. Mamma, sono belle case, invece a me piacciono molto quelle prefabbricate, in legno che sembrano case normali, invece sono in legno, però fatta bene, no? Come ti vuoi la seduta per fare a casa di zingari? Vabbè, ma c'è troppa differenza, capito? Vabbè, lì c'è un'organizzazione diversa dalla nostra. Sì, sono diversi. Tutti quelli Ferrari, ti puoi immaginare, se hai preciso a me, Ferrari, Lamborghini e quant'altro, case mastodontiche, in un viale dove la macchina praticamente non la utilizzano, ma vanno a piedi, però per la quiete pubblica, per il silenzio, per non disturbare. Soldi, soldi ci sono lì. Il problema è no, che ci sono i magnacci invece che rubano, per quello che siamo sempre più poveri. Ma chissà, che cambia qualche cosa. Carità, cazzo. Avevo promesso, io mica superato, mi ritiro dal lavoro, non travaglio più. Mi piglio una casa vicino al mare lì e me la godo. Fa così. Diciamo, ecco, a voi arrivi fortunatamente in bocca, più lontano possibile, quasi di senti. Ah, ma, no, vabbè, non è che me la piglio in spiaggia, no, me la piglio un po' caretto, però vicino al mare lì, al manco. Vabbè, lo zoomo a name, boh, fini, su tutto può succedere, però no, che può sentire un'ondazione e si sbocca, cosa pensa? I pericoli sono pericoli. Ma sto lì tranquillo, mi fate tutte le comodità impossibili. Ma mamma come 2 anni non voglio intendere di fare nulla, da voi dopo 2 anni vado un po'. Così è, sentite tutti. Va bene, va bene. Le prospettive già sono buone. Lo sai che stavo parlando con Roberto all'ora di pranzo, verso mezzogiorno, sì. A un certo punto mi si è abbassata tutta la potenza, la modulazione. Però da un altro ispettore. Ma dimmi tu, che sono tutti quegli ispettori che avevo prima. Di nuovo un altro ispettore. Adesso ho messo quello del TL922, lo ispettore. Quello con i PL in vetro. E Xavier? No, a me lo fa invece quando faccio da una radio all'altra, che è comodo. Sono messo in corto poc'anzi, tant'è vero che devo mettere una passata di accordatore, non so perché, non so cosa cambia. No, io non ho di accordatore, io ho il commutatore, quello elettronico, e c'ho un'unica stazione che cambia dal 430 al 440 e basta, cioè dal 430 al 140 e buh, capite? È già la seconda volta che metto uno degli spezzoni di quelli di 213.000, bisogna, c'ho una 3 o 4 metri di H1000, bisogna che compro il PL, ma mi compro, piace lui il PL, bisogna che me li faccia un po' di spezzoni buoni. Adesso li ho tutti quelli, li ho messi a parte dentro l'armadio e mi sono messo quello che mi ha varato la Kingo nell'adattazione col PL922, figurati, che è grigio, il carretto, è tipo H100 e c'è il PL in vetro, in porcellana, quindi porcellanati, capito? E se avete, si fa degli effetti buonissimo, sono i PL, non è il cavo, non sono i PL che non servono a niente. Ma io voglio dire, a me faccio una commutazione con un commutatore massiccio, grande, tra una roba dell'altra, poi ritorno a questa e vedo che si è messa la potenza, allora devo nuovamente accordare e si ristabilisce, non so perché. Quello è un altro difetto, però quello può essere come cambi che perde l'accordo, come cambi radio, che succede, non è niente. Però questo invece parlando, cazzo, se ne è accorto Roberto, da 9.60 sono sceso a 9.30, quindi se ne è accorto, perché è anche vicino lui. Ed era nuovamente un altro spezzone da 60 cm di con PCBL e Gumparabi da Fusaro tempo fa. Infatti li ho tutti turti e li ho messi tra armadio. Adesso domani, che ce li ho un po' di PL buoni, me li faccio un paio di spezzoni di quelli di H1000, capito? E questo qua lo metto a posto, e questo è più lungo, però questo è un signor spezzone, questo è quello dell'amplificatore che non ho capito perché è rimasto a me, ma ho venduto l'amplificatore e arriva sino per aggiurare un cavo di commutazione, boh, vabbè. Ma non c'ha Gianni. Non so che fine ha fatto. L'abbiamo chiamato un paio di volte, era al telefono, è arrivata gente all'improvviso, non ci ha potuto avvisare. Bene, bene. Sicuramente. Che cambiando il tempo, sta cambiando il tempo. Ho visto. Cosa fa me? Prova. Questo è più alto il segnale. Diciamo la lavorazione, la tua è quella, però questa spinge di più. Ma per niente. Beh, no, la radio non la guasta e rimane sempre uguale. Ed è quello che mi stai vendendo, sì. Due da mettere, a posto, ti interessa farmeli? No, ti mando la foto, mi dice la pena, devo uscire fuori perché ce l'ho fuori, dammi tempo, va. portarlo all'unico distinto, ci conferma, ma infatti è così. Avanti, Anto. Ma sentivo leggermente come mai? Ah, boh, se non c'hai fatto, non lo so, io non sentivo niente. Passato da 7 a 9 come segnale. No, sentivo quando parlava l'amico da Sorso, non mi ricordo il nome. No, non ho sentito proprio un rumore strano. Riprova a vedere. Ehi, mica te lo mandate Vanni, guarda se ti piacciono. Sono due gemelli e poi in uno ci manca qualche cosa. Dall'altro invece è completo, ma non so se perché non vada, dopo non so, se accenderà al ventre direttamente quando lo attacchi, vorrà controllato. Sicuramente anche quello del bambino è il colore ZG, come il 131. preciso. Ma spento tiri. No, e vabbè. Quando telefonano le donne così ti tengo tre ore al telefono. Mi ha segregato, si raccoglie le lezioni, adesso chiudo che devo fare roba, cazzo. Scaricato insomma. KK. Va bene. Ma come faceva? Qualcuno che ha parlato insieme a te non ho capito niente. Ti ciao di nuovo Gianni. Vediamo un po' c'è qualcuno che vuole entrare. Qua il solito portantista che oramai sappiamo chi è, da dov'è, quindi fa da bravo. Ma chi si pone al voltante è fatto nome e cognome. Bambinetto di merda, cazzo. Avanti, Antu. Ah, ma non è che l'ho sovramodulato io che stavo ridendo, no? No. Ah, ma cazzo guardi chi sono, ma pagarlo, i vagabili. Buonasera a tutti, non ce l'è importante. Antonio è sovramodulato ridendovi, Claudia. Lui era, io non me ne accorgo. Non ci avrò modulato. Avevo lo stesso segnale di Dino agganciato, quindi non ho capito un accidente. Ciao Tony, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Mimosa. Mimosa, buonasera. Tu che pomeriggio siete la domenica sera? Non uscite quanto ce l'hai? Sì. Se state troppo bene in casa, cosa? Io mi sono fatto un bel pisolino, guarda, in mezzo al piumoncino così bello caldo. E sono tu? E non solo, anche io. Avete fatto bene, tanto. Non venuta pure, ma poi domenica specialmente. E sì, poi per l'Italia vi siamo cresciuti. Un po' di assembramenti. Fate il break. E questo? Non vedi che era questo quello che ho sentito, che non ho capito niente. Stai uscendo male, chi sei? Sembra fuori frequenza. Cla, stai uscendo male, Cla. Sembri fuori frequenza, Cla. No, io non capisco niente, Cla. Sembri fuori frequenza, Cla. Era lui poco fa, che non capivo niente. Pensavo che stesse parlando assieme a Tino, invece ha parlato da solo e sta facendo così, non mi capite. Va bene, facciamo girare, avanti Gianni, dobbiamo rompere, prendi. Sì, io non so come è fatto a conoscerlo, che era Claudio, io non ho manco capito chi era, non si comprende nulla, boh. Sicuramente qualche radio vecchia che sta provando, se lui sicuramente è così, tanto riprende e capa. No, io già l'ho capito che era lui un pochino, cioè ho capito Claudio, però non ho capito altro, però ho capito che era lui guardando dal segnale, ho capito che era lui. Vabbè, magari ho fuori frequenza, perché mi sembra qualcosa di fuori frequenza, o se no ha toccato a che cosa, non lo so.